Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Gli osservatori sono tutti concordi. È la 'ndrangheta la più potente e ricca tra le mafie nostrane. Negli anni degli scontri tra cosche, in Calabria ha ucciso tante persone quanto una guerra dichiarata. Poi ha continuato a farlo, ma nel silenzio dei suoi affari e nella profondità delle sue infiltrazioni. Oggi anche i loro nomi, i nomi dei morti per mano di 'ndrangheta, vengono ricordati nell'interminabile elenco delle 900 vittime di mafia e terrorismo. Un elenco ripetuto, come ogni anno, nella giornata a loro dedicata da Libera all'inizio della primavera. Quest'anno la manifestazione si svolge lungo le strade di Potenza, in Basilicata, una regione che se è stata infiltrata dalle cosche in ritardo rispetto ad altre, in 30 anni ha già perso 20 punti di PIL, secondo Banca Italia, e da 15 anni conta almeno 7-8 locali di 'ndrangheta. Traccia questa mappa il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, da 20 anni impegnato nella lotta alla mafia della sua terra. Una lotta che passa sì attraverso le operazioni sul campo, ma anche attraverso il funzionamento della macchina giudiziaria. Ed è per questo forse che l'ultimo libro l'ha intitolato «La giustizia è una cosa seria». Non dovrebbe essere un'ovvietà? Bisogna ripeterlo? Una provocazione, si parla, si chiacchiera troppo del sistema giudiziario e spesso viene utilizzata come clava, come un'arma di ricatto, mentre attraverso il sistema giudiziario noi sempre incidiamo sulla vita delle persone, non va urlata, ma se si vuole parlare di giustizia bisogna fare delle proposte concrete, ad esempio sulla durata del processo. L'agenda politica discute anche di processo breve, qual è la sua opinione al riguardo? Io non sono d'accordo con il processo breve. Il processo può durare di meno rispetto ad oggi solo se lo si informatizza. L'elettronica, l'informatica abbatte i costi, i tempi e il potere discrezionale, quindi l'abuso. Poi ci sono tanti altri piccoli accorgimenti, ad esempio io penso che ci sono oltre 200 magistrati che sono fuori ruolo, impiegati nei vari ministeri o nelle regioni, nelle province, nei comuni a fare i consulenti. Un'altra cosa che si potrebbe fare è chiudere 20 tribunali con 5 giudici. Quindi delle strade molto concrete, diverse dalle riforme epocali, diciamo, sì, della giustizia, esatto, ma che vanno nel concreto dell'amministrazione giudiziaria. Se il Ministero della Giustizia fosse un privata, domani fallirebbe. Un altro punto sensibile è quello della cosiddetta obbligatorietà dell'azione penale, cioè la possibilità di indicare delle priorità di intervento. A volte non sempre, non subito si contesta l'associazione mafiosa, per dire, ma ci sono una serie di reati che sono spie di interessi mafiosi. Secondo lei, stabilire per volere legislativo una priorità può portare a delle storture? Sì, assolutamente. Non serve assolutamente a niente. Creare delle priorità vuol dire aumentare l'ingerenza del potere amministrativo nel sistema giudiziario. Io penso che ci vorrebbe una forte depenalizzazione e creare con un criterio di automatismo delle sanzioni amministrative. Un altro aspetto ancora che ha a che fare con l'organizzazione giudiziaria, che è quello del rapporto tra la procura e la polizia giudiziaria. Questa è la cosa più delicata, certo. Ecco, sì. In questo progetto di riforma viene un semplice avverbio che era direttamente la dipendenza. E questa è la cosa più grave di tutte le modifiche proposte sentite sin oggi. Dal suo osservatorio, che è specifico, che è quello della lotta alle mafie, che ha tutta una serie di corollari, di vicende, sì, di zone, sì, grigie, anche le ultime inchieste hanno fatto vedere come spesso le mafie poggiano anche su collaborazioni, su talpe. Sì. Ecco, far cadere quell'avverbio crea un ulteriore problema anche nella lotta alle mafie? Tra le modifiche proposte questa è la più grave. Mette il caso in cui passa che non c'è più la dipendenza diretta della polizia giudiziaria con la magistratura e che la polizia giudiziaria non abbia l'obbligo immediato di comunicare la notizia di reato alla procura. Accade che più giorni passano dalla comunicazione dalla polizia giudiziaria alla procura, maggiore è la possibilità di interferenza, di pressioni sulla polizia giudiziaria ad annacquare la notizia di reato. Il politico farà di tutto costo per far arrivare nella sua provincia un questore, un dirigente di una questura, suo amico. Io immagino il panico del poliziotto, del carabiniere a dover comunicare una notizia di reato che riguarda il politico di turno. In Calabria c'è un'indagine recentissima, ipotizzano zone grigie anche interne agli stessi ambienti giudiziari. A Milano l'ultima operazione contro l'Ndrangheta ha mostrato la connivenza di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine in questo giro di pizzo e racket. Gli episodi di corruttela all'interno della polizia giudiziaria o all'interno della magistratura sono molto rari rispetto al numero degli operatori. La cosa che può accadere è soprattutto l'annacquare, il ritardare la notizia di reato quando si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta zona grigia o colletti bianchi. In Calabria, per il tipo di inchieste che voi fate, quanto pesa sul vostro lavoro questa zona grigia che tocca anche funzionari pubblici? Tenga conto che già negli anni 70 i figli dei capi mafia andavano all'università, quindi oggi i figli dei capi mafia sono professionisti, sono medici, ingegneri, avvocati, sono nei quadri della pubblica amministrazione, è gente apparentemente normale ma al contempo è medico e capo 'ndrangheta. Oppure è anche un pubblico ufficiale a volte. Certo. L'Ndrangheta ha sempre cercato incontri, contatti, abbracci con gli uomini delle istituzioni. E in questo quadro secondo lei si inserisce anche quanto ad esempio l'ultima inchiesta milanese ha portato in luce, cioè la decisione di clan e famiglie insediate sul posto di far convogliare i propri voti su alcuni candidati che hanno anche incontrato? Le mafie in genere votano e fanno votare e sono dove c'è da gestire denaro e potere. Anche nelle ultime, penultime, terzultime consultazioni elettorali i capi mafia hanno sempre cercato di capitalizzare il loro pacchetto di voti. Dei politici sono andati a casa dei capi mafia per chiedere il pacchetto di voti in cambio di appalto, in cambio di altri favori. Nuovi capi hanno preso il posto di quelli arrestati? La storia ci ha sempre insegnato questo, sì. Ci sono migliaia e migliaia di ndranghetisti in Calabria, come in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna, in Toscano, nel Lazio. Ci sono incensurati che sono a capo di locali di ndrangheta che ancora non abbiamo toccato. Con questo sistema giudiziario e con questo sistema scolastico e senza un sistema giudiziario proporzionato alla realtà criminale non andremo da nessuna parte. Quindi secondo lei anche l'attuale sistema scolastico in qualche modo favorisce una cultura mafiosa? Con un sistema giudiziario forte, nell'arco di 5-6 anni noi possiamo abbattere le mafie anche del 60-70%. La scuola è un discorso di 10 anni, 20 anni, però se non si investe nella scuola, se non si fanno stare i bambini anche di pomeriggio a scuola, se sono in una famiglia di ndranghetisti, stanno a casa e si nutrono di cultura mafiosa. Tornando un attimo a quello che dicevamo prima a proposito di Milano e al fatto che morto un papa se ne fa un altro, cioè non si lascia mai un vuoto di potere nella gerarchia ndranghetista, soprattutto considerando come a Milano, ad esempio, in questo momento sono sul piatto scadenze che nell'ottica malavitosa sono importanti, da una parte quelle economiche come l'Expo, dall'altra anche il rinnovo dell'amministrazione comunale. Non esiste una ndrangheta che sta a guardare, la ndrangheta cerca di entrare per capitalizzare tutto il suo potere, cioè se c'è un grande appalto è ovvio che la ndrangheta, la camorra faranno di tutto ad entrare in questo grande appalto, perché non solo per guadagnare, non solo per far lavorare i picciotti, ma anche come forma di esternazione del potere rispetto agli altri locali, anche una vetrina per loro, anche loro vivono di immagine, il potere lo si esterna anche in questo modo, dimostrando agli altri locali di essere entrati a lavorare in un'opera prestigiosa. Un marketing anche della malavita. E secondo lei, considerando il peso della Lombardia nella geografia ndranghetista, la sostituzione di questi vertici, secondo lei, è stata presa in autonomia o c'è stata anche una indicazione che arriva dalla casa madre, quindi dalla Calabria? La storia, i processi anche recenti ci hanno dimostrato che tutti i locali di ndrangheta del mondo hanno un cordone ombelicale con la provincia, con il crimine di Reggio Calabria. La giornata di libera, quella per le vittime di mafia, si celebra quest'anno a Potenza. I calcoli di Banca Italia hanno dimostrato come anche nelle regioni a più recente contaminazione malavitosa, già nel giro di 30 anni abbiano perso 20 punti di PIL. In Basilicata da 15 anni, ci sono locali di 'Ndrangheta, cloni di quelle province di Reggio Calabria. Quello che io volevo chiederle è, a proposito delle tante vittime delle mafie, secondo lei anche tutta la battaglia e la difesa dei testimoni di giustizia sia in un certo senso un messaggio che rientra nella più complessiva lotta alle mafie? È un problema grosso, importante e delicato, non solo di sostanza, cioè quello di tutelare i testimoni di giustizia, ma anche quello di immagine, di credibilità delle istituzioni. Cioè, se un testimone di giustizia viene trascurato, di certo non è di aiuto per incentivare la denuncia di altri testimoni di giustizia. Lei da più di 20 anni, appunto, si occupa soprattutto di 'Ndrangheta. C'è qualche cosa in particolare che lei vorrebbe capire della 'Ndrangheta che ancora le rimane oscuro? Dei codici, delle dinamiche della 'Ndrangheta credo di saperne abbastanza, perché sono un figlio di Calabria, sono nato e ho giocato e ho vissuto con i figli degli 'ndranghetisti, che poi ho indagato e fatto condannare, ma quando ero ragazzino, quando ero bambino, giocavo con quelli che fossero diventati capi mafia. È ovvio che noi vorremmo sapere qualcosa in più di tutti gli omicidi che non siamo riusciti a scoprire gli autori. Ad esempio, si è un po' parlato anche del fatto della 'Ndrangheta che negli ultimi tempi abbia fatto attirare su di sé l'attenzione con una serie di fatti eclatanti di cui si parla anche nell'ultima relazione della Direzione Nazionale Antimafia. Qual è la sua lettura di quello che ai profani è sembrato come un cambiamento di rotta? Sono delle indagini in corso da parte della Procura di Catanzaro, quindi noi dobbiamo stare attenti a non mettere tutto in una scodella. Per quanto riguarda i fatti accaduti l'ultimo anno a Reggio Calabria, mi riferisco ad esempio alle bombe, bisogna cercare di capire qual è stato il grado di intervento da parte della criminalità organizzata negli episodi. Non sto parlando di cupola, non sto parlando di crimine, bisogna capire cosa è accaduto all'interno della città di Reggio Calabria. Può darsi anche che alcune famiglie, alcuni patriarchi non erano d'accordo su quello che è accaduto. Quindi secondo me qui ancora è tutto da chiarire e da sviscerare sulle causali che hanno determinato quelle bombe. Nella giornata dedicata alle vittime di mafia mi fa piacere concludere questa puntata con una domanda a voi. Voi siete mai stati ad una manifestazione in ricordo delle vittime di mafia? Sentite il bisogno in qualche modo di attestare la vostra partecipazione, la vostra presenza in alcune occasioni? Scrivetemi, se vi va, sulla pagina Facebook di Storiacce, dove ritrovate anche i link a questa come a tutte le altre puntate di Storiacce, e ci ritrovate anche sul nostro audioblog. Ciao a tutti, a sabato!